Componimento 86esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Io avrò sempre in odio la fenestra onde amor m'aventò già mille strali, perché alquanti di lor non fur mortali, ch'è bel morir mentre la vita è destra. Mal sovrastar ne la pregion terrestra, cagion m'è lasso d'infiniti mali, e più mi duol che fie meco immortali, poi che l'alma dal cor non si scapestra. Misera, che dovrebbe essere accorta per lunga esperienzia omai che il tempo non è chi indietro volga o chi la freni. Più volte l'ho con ta parole scorta. Vattene, trista, che non va per tempo chi dopo lassa i suoi dì più sereni. Fine del componimento.